24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Ecco Marino, la sagra c'è dell'uva, puntane che danno vino, quanta abbondanza c'è. Ho appreso e subito denunciato all'arma dei carabinieri un fatto molto grave. Qualcuno si è introdotto abusivamente nel sistema informatico del Campidoglio, della capitale d'Italia, protetto da sistemi di sicurezza, ed ha falsificato i dati relativi ai permessi. Più giù c'è Castello, che è davvero un gioiello, con quel lago da incantare. Favorisca la patente, per favore. Tu non mi riconosci o fingi di non riconoscermi? Dispiacente, ma io in servizio non riconosco nessuno. Comunque resta sempre il fatto più grave, l'eccesso di velocità. Favorisca un qualunque documento, prego. Beh, a questo punto sai che ti dico? Signor sindaco, aspetti, non fuga. È un reato, signor sindaco, aspetti. E Genzano, orbitore, sguarbano. Ragazzi, ma voi sapete che Ignazio Marino rischia di perdere il posto da sindaco per questa storia delle multe, eh? Il multagate di Ignazio Marino, ma che ha combinato il sindaco di Roma? Ha combinato che da qualche giorno è sulla graticola proprio, perché non riesce a dare spiegazioni. Ha parlato di hacker, persone che sono introdotte nel sistema informatico, no? E noi abbiamo recuperato il vigile con Alberto Sordi, no? Che multò il sindaco Vittorio De Sica. Ma che succede? Ma adesso non riesce più a spiegare l'hackeraggio, pare che sia una bufala. E che ci sono queste 9 multe prese? Probabilmente guidava la moglie, non lo so, non guidava lui, lui va in giro in bicicletta. E il problema è che ci sono queste 9 multe non pagate. E non si riesce a dare una spiegazione di questo pass scaduto per la ZTL. Poi peraltro il Fatto Quotidiano racconta che i sindaci hanno diritto a dei pass per la ZTL, ben 3. Lui ne aveva solo uno per la sua famosa e celeberrima Panda Rossa. E poi che è successo? Questo pass è scaduto, nessuno l'ha rinnovato, sono arrivate le multe e lì è nato il pasticcio, che sono state cancellate, no? Tolte, boh. Ieri pare che le telecamere delle Iene siano andate da Marino, che è silenzioso da 24 ore, ha convocato ieri anche un vertice di maggioranza su questa storia delle multe. E lui è andato via svicolato in bicicletta, pare che sia caduto in bicicletta o quasi caduto oggi, forse sulle Iene, vedremo questa sera, no, sono in onda, mercoledì vedremo se ci sono queste immagini di Marino che sfugge alle domande, scappa via e forse cade in bicicletta. Mamma mia, ma che succede? Sguarbano su pietra divertì. È possibile davvero che un sindaco di Roma possa cadere per 8 multe non pagate? Ma chi lo sa? Succede di tutto, eh? Possibile tutto. Possibile di tutto in Italia, alle 6:32 minuti, questo è 24 mattino. E voglio salutare Lorenzo Nespoli in redazione, voglio salutare Filippo Aureggi oggi in regia. Che ci fai, Filippo? Ti hanno sbrandato alle 3:30? Più o meno? Hai rottamato l'Alpino? Dove è finito l'Alpino? A bere grappa? A grolla? Whisky? No, gli alpini non bevono whisky, dai. Vabbè, allora, questo è 24 mattino, dai, apriamo subito il Parlamento, c'è una sigla al Parlamento, fantastico. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Parlamento, forza, forza, gente, accorrete al forza, Parlamento. Forza, forza, tutti, che è tornata Paola Saluzzi, come Madonna, stai? Come mi siete mancati. Come ti ho visto ieri. La settimana scorsa ero ridotta a una specie di baco da seta, per essere chic, o donna gomitolo. Guarda, con 40 io di febbre. Io per una donna per... contro ogni tentazione. stazione, altro no. la camicia di seta. Subito arriva un messaggio: Paola for president, come sta Paoletta? E glielo chiediamo. Bene, mi siete mancati tanto. Guarda, c'è da dire che ieri, la scorsa settimana, per dovere di privacy, non ho mandato in onda il tuo messaggio che mi hai mandato in segreteria, ma era struggente. Voi avreste dovuto sentirlo il giorno prima. Alessandro, sto male. Sembrava veramente che io chiamassi dalla terra degli zombie, e forse era vero, ma di fatto eccoci qui. Eccoci, ma fossero solo le multe i problemi che abbiamo a Roma. Questo è vero, però. Ma rischia il posto. Ma oggi i giornali attaccano in maniera. Però questa cosa io la trovo molto. Tra l'altro, visto che Ignazio Marino è molto American style, no? Ha vissuto in America. Sì, è stato secondo me un inghippo proprio dal quale però adesso cerchiamo di capire cosa sia successo. Questo sì. Abbiamo dei problemi, Houston. Abbiamo dei problemi. In questa città. Guarda, ecco, che in America, per esempio, una roba del genere saresti subito saltato, per dire. Cioè, in America, concetto, anche se hai con la carta di credito, diciamo così, dello Stato degli Stati Uniti, anzi dello Stato nel quale lavori e vivi negli Stati Uniti, un film che hai preso a noleggio in un albergo, salti. Insomma, ci sono dei principi un po' più così, ecco, no? Sì, cioè, più che altro questo annaspare, questo dare una verità, ieri poi non ha parlato, non si sa. Comunque, vediamo, vorrei sentire anche la voce, guarda che parla... È lui! Sì, ma c'è un mistero, è stato misterioso anche con me. E ha detto, sì, vi rispondo domani, però ecco, vorrei approfondire un attimo. Luca Dini, direttore di Vanity Fair, buongiorno. Cosa Ciao, devo dire? Buongiorno. Che buonanotte, buonasera in realtà. Buonasera. Buonanotte. Dove sei? Qui sono. Aspetta. No, dici l'orario, poi noi indoviniamo dall'orario. Che ore sono lì? Sono le 23:35. 23:35, quindi sei a ovest, diciamo. Vabbè, ma io lo so perché ho mai dato il numero di telefono. Quindi sei negli Stati Uniti? No, sono in Canada. In Canada. Dove sei in Canada? Sono stato quest'estate in Canada, è fantastico. Dove sei in Canada? Sono a Churchill, Manitoba, sulla baia di Hudson. Che nostalgia, ci racconti cosa vedi sulla baia di Hudson a questo punto? Vedo il ghiaccio e freddo, è il posto, è la capitale mondiale degli orsi polari. Ah, del freddo? Proprio degli orsi polari, cioè sono qua perché... c'è il periodo della migrazione degli orsi polari, quindi sono venuto a fare il giornalista e ogni tanto faccio anche questo. Paola, di qualcosa, è venuto questo a vedere la migrazione degli orsi polari. È straordinario, no, Luca Dini for president. Ma cosa sei? Veramente, sei passato a National Geographic? Praticamente sì. No, mai. Il nostro Vanity Fair mai. Aspetta. Ma cosa ci fai lì a seguire la migrazione degli orsi polari? No, è molto interessante, nel senso che sai che con il riscaldamento globale i ghiacci si formano sempre più tardi, gli orsi polari non riescono a tornare sul ghiaccio e rischiano di estinguersi sostanzialmente nel giro di 30, 40, 50 anni se succede qualcosa che non saprei che cosa. Quindi è una Seguire, ma che ma per esempio ecco, che non perdano tempo quando si parla di clima, potrebbe anche succedere questo. E adesso si stanno vedendo Obama e il cinese adesso, lì se non la risolvono loro, noi non possiamo fare niente. A stare fuori qua in giro a fare una passeggiata qua fuori sulla strada di questa ridente cittadina, il riscaldamento globale non è che lo sento. No, esatto, quanto c'è di temperatura? C'è un bel meno 20. Meno 20! Paola Saluzzi, la vestaglietta color crema. No, non basta. Lì bisogna vestirsi da boiler, altro che con qualcosa di molto caldo addosso. Comunque. Il pigiama termico, che immagine, esatto, che immagine. E anche ci racconta anche la parte più importante, cioè noi siamo gli animali più dannosi che il mondo potesse pensare di ospitare. Eccola là, la nostra Paola Saluzzi. Ci chiedono prima anche, che si parli di orsi polari. Ci chiedono anche il buon Claudio se è emigrato lì l'orso Marione ad Inolfi, che è mercoledì scorso. Il discorso era qui ospite con Luca Dini. Vabbè, ma insomma, Claudio, Non l'hai visto, non l'hai visto. E soprattutto qui dall'altra parte del mondo mi dispiace moltissimo perché mi sono perso la canzone di Romina Power contro le scie chimiche. Contro le scie chimiche? No. Scusa, no, c'è una canzone di Romina Power contro le scie chimiche. Pare di sì, ho letto questa cosa. Cioè, guarda, magari la recuperiamo anche noi. Però ti sei perso anche perché che cosa? Il vero mistero non è... Il vero mistero è la voce di Romina Power, non le scie chimiche. La voce... Allora c'è da dire che ti sei perso che le prime 9 pagine del Corriere della Sera sono sulla legge elettorale. Le prime 9 pagine di Repubblica sono sulla legge elettorale. Accordi, accordicchi, accordoni. Mamma mia ragazzi, oggi si vedono quasi esco. Quasi ecco, alle 18 si vedono Berlusconi e Renzi. Paola Saluzzi, di qualcosa tu che tutti i giorni ti occupi con grande entusiasmo di queste cose su Sky TG24 pomeriggio. Assolutamente, diciamo che questa è la notizia, sì. E che soprattutto noi speriamo sempre di dare la notizia e di leggere la notizia, cioè che finalmente si siano trovati accordi tali, accordi molto molto ampi, per cui si facciano le cose, sì. Si facciano. Ieri c'era un Presidente della Repubblica ritratto con tanta tenerezza, con il suo bastone davvero gentleman napoletano e anche da signore di 89 quando anni. Quando entrava in gioielleria per fare il regalo sì, a Clio. Ecco, e la domanda è come non usi quel bastone sulla testa di qualche politico che ancora, le riforme non si fanno e questo non si è ancora arrivati e quello non si è ancora arrivati. Cioè, ritmo ragazzi, ritmo, fare. Comunque, due notizie. La prima è che, come ci scrive un ascoltatore, effettivamente Obama è Xi Jinping, vi piace questa cosa? Hanno fatto proprio un accordo sul clima, un accordo considerato storico, questo nella notte. Vediamo. Vediamo che tipo diciamo, hanno fatto questo accordo sul clima, si conosceranno i dettagli più avanti e quindi nella giornata. E poi ci scrive Alessandra Beato Dini. Io ci sono stata anni fa, un'esperienza meravigliosa sia per gli animali e sia per le aurore boreali. Caro Luca, insomma, un pochino di invidia noi così la buttiamo lì in Canada. A proposito di per ora solo bufera. Niente aurora boreale. British. Meno British. 20, ricordiamo la temperatura lì, meno 20. Va bene, allora, visto che hai parlato di freddo, sentite Crozza, Crozza che parla ieri a Ballarò sul Presidente della Repubblica. Non è l'Europa che le chiede di restare, è più l'INPS. Presidente, la prego, ci ripensi. Potrebbe sottoporsi al primo esperimento di criogenetica. Facciamo così. Lei si fa ibernare e la scongeliamo noi quando è pronta la legge elettorale. Presidente, sveglia. Chi è? Chi è che mi ha svegliato? Chi sei? In che anno siamo? È il 2000, è il 4012, tranquillo, umano. Sono Renz 9000, il robot del Fagli. Eccolo qua. Effettivamente potrebbe andare avanti così. Siamo, ricordiamo, nel pieno dell'ottantesima settimana decisiva per la riforma elettorale. Luca Dini, lo iberniamo Napolitano e ce lo teniamo per sempre. Iberniamo tutti. Ma ragazzi, ma un paese appeso a un signore di 90 anni quasi, ma cioè ci rendiamo conto? Direttore, di qualcosa, la politica appesa a un signore di 90 anni. Che non ha ancora perso la pazienza, sì. E che dobbiamo fare? Soprattutto viene ripetutamente anche offeso e insultato, come se fosse lì perché ci ha voluto stare a tutti i costi, sì. Quando invece ce l'hanno voluto a tutti i costi, insomma. Sì. Ricordiamo sempre le elezioni, te la ricordi Paola Saluzzi, con lui che fa il primo discorso alle Camere riunite? E lo applaudono e lui praticamente gli diceva: farabutti, disgraziati, non siete stati capaci di trovare uno al posto mio. E questi, bravo! Applaudivano. Io dico, citofonare signora Clio, e non aggiungo altro da donna in questo periodo. Io vorrei vedere che cosa ne pensi la signora Napolitano di tutto questo? Citofonare signora Clio. Vabbè, ma lui va in gioielleria, la omaggia per gli 80 anni. In verità, sono adorabili anche in questo, però insomma, fare qualcosa, perché poi sembra, appunto, sembra oltretutto che sia ancorato alla sua strona, no, non me ne voglio andare, no, magari fate qualcosa in modo tale che le cose migliorino, anche per un signore che ha svolto fino all'ultimo istante, sta svolgendo fino all'ultimo istante tutto il proprio dovere, sì. No? Ma effettivamente è un po' così. Comunque, giornali noiosissimi con queste nuove pagine. Le cose più interessanti sono questa storia di Ignazio Marino. Tu, Luca, te la sei persa, anche perché da quelle parti del mondo si parla d'altro, ma ci sono nove multe. Sono quelle. Si parlava ieri di voci di divisioni, perché non riesce a spiegare questa cosa, oppure l'ha spiegata in maniera pasticciata. E dico, da quelle parti siamo partiti così, da quelle parti, cioè in America o anche in Canada, se fai una cosa del genere, cioè non sai spiegare perché ci sono nove multe non pagate, non è che duri più di mezza giornata, o no, o sbaglio, caro Luca? No, ma appunto saranno le scie chimiche, il riscaldamento globale. Saranno le scie chimiche anche quelle, sarà un pasticcio. Il problema è che questo pasticcio va spiegato in maniera chiara, di capire che cosa è successo. Cosa dobbiamo spiegare invece di quello che sta succedendo in Liguria? Anche voi di Sky lo state seguendo. Cioè, qua io sono affranto. Allora, devo dire una cosa, tra l'altro, alle 8:15 avremo ospite Burlando, il presidente della regione. Tra l'altro, invece, alle 8:30 avremo ospite Roberto Saviano, lo voglio dire, per parlare di un'altra vicenda ben nota. Cosa dobbiamo dire di quello che succede in Liguria, cara Paola? Cioè, io non lo so, sono affranto tutte le volte. Piove e muoiono delle persone. No, ma proprio oltre ad essere affranti, è vedere che non, lo dico con immenso rispetto, perché qui stiamo parlando di vite umane che sono andate via, ma la cartolina è identica. Esatto. Volessimo fermare alle immagini, noi potremmo televisivamente, noi Sky, noi chiunque, riutilizzare le stesse immagini. Anche perché 2 anni fa a Leivi, dove sono morti 2 pensionati, è crollato un ponte. È la stessa cosa. Io non lo so. Sì. È la stessa cosa. Allora, c'è un elemento che non funziona. Ci possono essere le bombe d'acqua, e torniamo al discorso del clima. Sì. Ci possono essere tutti i disastri che vuoi, ci mancherebbe altro. Non parlo io seduta dalla sedia a pontificare su. Ma non è possibile che tutto continui a essere identico a 5, 2, 3, 7, 8 anni fa. È la stessa identico. Cosa. È tutto uguale. Ma poi non per i terremoti, che sono delle cose di... Perché piove tanto. A novembre piove. Ti do una notizia. A novembre piove. A novembre, dove è il nostro mitico Luca Dini, fa freddo. La notizia è questa. Cioè, è ciclico, eh? Quant'è la temperatura, ce la vuoi ricordare? Si è abbassata nel frattempo, Luca? No, ferma sui meno, sarà meno 19. Dai. Ah, meno 19, allora si è alzata, hai guadagnato un grado. Ci sono tutti che ci criticano, state santificando Napolitano, che è della stessa pasta dei politici che criticate, ma non c'è da santificare niente, c'è semplicemente da dire che l'Italia politica è appesa a un signore di 90 anni, cioè a me pare una cosa francamente assurda. Ma dobbiamo andare a sentire le informazioni sul traffico e poi entriamo! Questo mercoledì alle 6:33 una nuova puntata di Evviva le Rosse con Alessandro Milan e Paola Saluzzi e qualche altro ospite di cui non ce ne frega assolutamente nulla. 24 mattino. Oh, bravo Bagnasco, finalmente no alle nozze gay, no che adottino, vogliono scardinare le cose sane. Bravo Bagnasco, finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire le cose come vanno dette. Allora, voglio suggerire 3 nomi per il Quirinale, che sono Piripicchio, Piripacchio e Cipollino. Sei d'accordo, Milan? Il signor Milan con Paola Saluzzi, siete la coppia più bella del mondo. Grazie Milan, questa mattina ho letto l'articolo di Lorenza Castagnier, eccezionale, tu sbagli sempre tutto. Milan, e smettila, la radio costa. Signore Milan, come stai? Te voglio dare un consiglio però, per non fate più via Ligur Piercore, ti propongo di fatto diffuso della Ternana, abbandona Romela, ne che tanto ci via sempre. Se accetti ti daremo la tessera onoraria. Ecco. Senti, salutami dando la signora rossa del mercoledì, e gli mando una rosa telematica di ieri. Ti saluto, ciao Milan, che te pazzino via fuoco. Paola Saluzzi. Paola Saluzzi è tornato a colpire che De Bossi lo piglia a fuoco il nostro contadino. Amo quest'uomo, tutti i tifosi della Ternana. Tutti i tifosi, cioè, ma certo, ma se volete io divento tifoso della Ternana, mi siete simpatici, come no, la tessera onoraria, tanto il Milan, sì, effettivamente, che dobbiamo fare, ci accontentiamo così. Vabbè, siamo qua con la rossa, Paola Saluzzi, sempre in vestaglia di crema? Dunque, devo dire la verità? Beh, insomma, un po' più coperta, vabbè. Sempre in modo molto chic, ma un po' più coperta, ragazzi, è una febbraccia orrenda e schifosa, chiaramente parliamo di una cosa banalissima, che prende, anche questa è come le alluvioni, no? Come quando piove, quando arriva l'inverno si prende la febbre, vi do una notizia, certo, se uno non si copre la prende. Una grande notizia, Sì, grande notizia. Una grande notizia. Mitico Milan, mitico contadino dei Terni, cioè io dico andiamo a conoscere quest'uomo, vi prego. Vabbè, comunque abbiamo il vestaglione di Paola Saluzzi e il pigiama termico di Luca Dini, voi capite come siamo messi, siamo messi abbastanza bene, questo ci dobbiamo accontentare. Allora, avete sentito il messaggio di colui che dice bravo Bagnasco eccetera, ma su sta storia di matrimoni gay comincio ad annoiarmi, perché tutti i giorni si parla di questa cosa. Vabbè, tu Luca che ne dici? Tra l'altro su Vanity Fair vedo che c'è un servizio su questo coming out, come si chiama, come si dice coming out, adesso bisogna usare anche i termini corretti, scorretti, eccetera. Chi è Jonathan Groff? Jonathan Groff. È un attore che ha avuto una certa notorietà nelle serie TV, grazie a Glee, adesso fa un'altra serie dove è una storia di... È una storia di un gruppo di omosessuali, sì. Ma ed è omosessuale anche lui, e non gli è successo niente, la sua carriera è andata avanti lo stesso. Vabbè, dai, a Hollywood, comunque in America, si sa, è una roba... Beh, è cambiato comunque, cioè, è cambiato tutto abbastanza. Ma su Bagnasco io la penso sempre allo stesso modo, che lui fa il suo mestiere. Ma infatti io trovo anche scandaloso, cioè, voglio dire, la Chiesa fa la Chiesa, lo Stato fa lo Stato, il dibattito, cioè non potrebbero essere fatte le cose in maniera normale, la Chiesa cosa deve dire? Ma sì, la Chiesa poi non aspira a condizionare totalmente la politica, e la politica e la società devono imparare anche a sopravvivere, anche se fai qualcosa che alla Chiesa... Anche se piace, la Chiesa ha un parere contrario. Cioè. No, ma infatti, cioè, voglio dire, ma qual è il problema? Cioè, il problema forse è che qua veniamo condizionati troppo da quello che dice la Chiesa e la politica... Ma siamo noi che ci lasciamo condizionare. Ecco, bravo. La politica e la stampa. Poi, secondo me, il Paese ha fatto già dei passi avanti e non si stupisce certo di quello che dice Bagnasco, però... dorme tranquillo lo stesso. Dorme, su questo non c'è dubbio. Tu dormi tranquilla, Paola Saluzzi? Sì, dormo tranquilla lo stesso. Sono non costretta, felicemente costretta a sposare ogni volta le ragioni di Luca Dini. Ognuno fa il proprio mestiere. Diciamo anche che la Chiesa sta facendo con un signore vestito di bianco grosse rivoluzioni in questo che periodo. Forse si dimette, lo sai che c'è questa voce. Sarebbe fantastico, lui e Ratzinger. Come sarebbe fantastico, no? A quei due, chiamate Londra. Ci sono queste voci di Bergoglio, che potrebbe dimettersi, come? No. Dicono? Si dice in giro. Diciamo che nel frattempo sta combinando delle cose e sta mettendo in piedi delle cose molto serie, per cardinali che sono stati spostati e invitati ad andare altrove, ecco, principoni che vanno, troppi pochi ne hanno trovati, con i loro mega appartamenti e mega terrazzoni nel centro di Roma, a cui si è ricordato che la Chiesa è povera e deve essere povera, quindi la Chiesa sta facendo anche dei grandi cambiamenti. Se Bagnasco parla così, insomma, non ci si può aspettare nulla, e forse non ci si deve aspettare nulla di diverso. Sì. L'importante è che il Paese proceda. No, ma è chiaro, coscienza. La Chiesa fa la Chiesa. Però, io nel dovervi salutare, cara Paola Saluzzi, ti lascio la copertina di Vanity Fair, c'è un uomo e c'è una domanda: sposereste quest'uomo? Tu rispondi? chi è costui? Eh no, beh, brava. Prima devi rispondere, così no, compra grazie, scatola chiusa. Non lo sposerei. No, grazie, non hai appena sposato Ben Affleck. Ebbene, allora, buona giornata anche a te. Non so se convivrai con questo dubbio amletico di avere detto no a Ben Affleck. Vabbè, è così. Ti ringrazio, Paola Saluzzi, grazie a Luca Dini, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:18 minuti. Siamo qui noi, cari ascoltatori, e voi, razza di debosciati amici miei. Che state facendo? Siete già svegli? Siete già produttivi? Oppure siete al solito rallentati nelle vostre eterne colazioni? Qua c'è Filippo Oreggi in regia, sveglio dalle 3:30. E Lorenzo Nespoli, sveglio dalle 4:30. Forza! Schema Allegri a palla! Dai! Dai! Dai! Allora, oggi vi ricordo che avremo ospite il presidente della regione Liguria, Claudio Burlando, alle 8:15. Com'è possibile che ogni volta che piova qua muoiono delle persone in Liguria, e così succede. E poi avremo ospite Roberto Saviano dalle 8:30, minuto più minuto meno, per fare due chiacchiere alla luce della sentenza che ha fatto tanto scalpore. Torna da noi in diretta la terza volta Roberto Saviano, celebre scrittore, giornalista e scrittore di fama mondiale. Questi gli ospiti di oggi. Ora andiamo a sfogliare i giornali. Questo mercoledì 12 novembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre su acconti e tasse di fine anno, il fisco a caccia di 86 miliardi, dagli immobili 16 miliardi per IMU, TARI e TASI. Su questo anche Libero è più esplicito, casa e auto, nuova stangata, le sorprese del governo, mentre il Corriere della Sera apre su TFR in busta, niente sconti. Bocciati gli emendamenti su tassazione agevolata e prelievo su fondi pensione. E poi c'è la legge elettorale. Le prime 9 pagine del Corriere oggi dedicate a questo. Le prime 9 pagine di Repubblica dedicate a questo. Oggi alle 18 si incontrano Renzi e Berlusconi. Italicum, arriva il sì, pronto l'accordo Renzi-Berlusconi, così titola Repubblica. Mentre la stampa, Renzi-Berlusconi, ultimo atto. Il Messaggero, Renzi Berlusconi, intesa vicina. Il Giornale, la svolta di Berlusconi, fa pace con Fitto e compatta il partito. Mentre il Secolo XIX, come immaginate, apre sulla Liguria, tempesta mortale, questo è il titolo, mentre la legge della stabilità è il titolo del Manifesto, con le macerie in Liguria. Anche il Fatto Quotidiano apre con le foto delle macerie, hanno ucciso la Liguria. Iniziamo però da che cosa? Beh, iniziamo da Roma, dove tutti i giornali oggi si concentrano su quello che è diventato il Multagate. Ignazio Marino, sindaco di Roma, davvero ogni giorno ce n'è una e rischia sempre di più. Queste erano le voci che si diffondevano ieri, addirittura di possibili dimissioni. Guardate un po' i titoli, sbugiardato un'altra volta ma Marino non si dimette, questo in prima pagina di Libero, ma anche il Messaggero, multe, il giorno più lungo di Marino. Il senatore Augello, che è colui che ha fatto venire fuori il caso delle 9 multe non pagate dalla panda utilizzata da Marino o da qualcuno che era al volante, fa sapere che nessun hacker è entrato nel computer, ma è stato lo stesso Marino. Questa almeno è l'accusa del senatore Augello. Comunque anche Repubblica dedica una pagina a questo tema. Roma, Marino sotto assedio, il Multagate è un pasticcio, voci di dimissioni, ma lui resiste. E questo anche il Fatto Quotidiano dedica 2 pagine. Leggo da Repubblica, Giovanna Vitale, il giorno più difficile di Ignazio Marino inizia di buon mattino. Il senatore del Nuovo Centrodestra Augello, che del Multagate ha fatto ormai una questione personale, annuncia due buone notizie: il ritrovamento del permesso abusivamente retrodatato rilasciato alla famosa panda rossa del sindaco e l'identità del manipolatore del sistema informatico, cioè lo stesso Marino. È lui ad avere elaborato il dossier falso, tuona Augello. Non c'è nessun hacker. Ora, di questa vicenda, racconta Repubblica, per una giornata il sindaco Marino non sa che fare, si dimette, non si dimette, caccia via il suo capo di gabinetto, no, se lo tiene, fa finta di nulla, lo staff è disperato, annuncia una risposta ufficiale che però non arriverà mai. A un certo punto esce dal Campidoglio, inforca la bicicletta, lo assaltano, insomma, sono lì le telecamere delle Iene e Marino non risponde, cerca di resistere e, secondo quello che scrive Repubblica, scivola, cade o quasi cade dalla bicicletta per cercare di evitare le telecamere delle Iene. Chissà se verrà immortalata la scena, se è stata immortalata la vedremo forse stasera alle Iene. Comunque sta di fatto che la situazione si complica sempre più anche per il Fatto Quotidiano. Marino, multe, hacker, la maledizione in panda. Pagina 6 e 7, due pagine, racconta Edoardo Di Blasi, che ha il pregio tra l'altro sul Fatto di ricapitolare tutta la vicenda. La storia che inizia il 24 giugno e dal 24 giugno al 12 agosto la panda rossa di Marino entra per 8 volte senza permesso all'interno della zona traffico limitata. Ora bisogna chiarire che il sindaco di Roma ha diritto a 3 pass per la ZTL. Marino ne richiese solo uno nel 2013, quello per la famosa panda. Però a un certo punto il pass scade e nessuno lo rinnova nell'amministrazione, da qui le multe. Che succede poi a quel punto? Il 12 agosto il Comune di Roma prova a metterci una pezza coprendo tutto con un permesso temporaneo di quelli che si concedono ai sindaci che vengono in visita a Roma, e qui nasce un nuovo problema, perché un dirigente dell'Agenzia della Mobilità dice e mette a verbale dai carabinieri che prima del 12 agosto non c'era alcun permesso temporaneo per il sindaco. Da lì l'interrogazione parlamentare di Augello, insomma, e poi tutto il resto, cioè i pasticci nelle spiegazioni. Lo stesso Francesco Merlo oggi su Repubblica racconta che sembra Marino come la scena del film Il Vigile, interpretato da Alberto Sordi, che inflessibile multa il sindaco Vittorio De Sica, e ovviamente finì male, proprio come finito male il sistema informatico del comune, che Marino ha denunciato ai carabinieri, sarebbe ora che chiudesse un occhio elettronico. Il fatto è che per non pagare le contravvenzioni, scrive Francesco Merlo su Repubblica, il sindaco di Roma si è inventato un pass cancella multe e poi ha cercato di applicarlo retroattivamente, e quando maldestro non lo ha più trovato nel sistema informatico del comune è andato dai carabinieri a accusare i soliti ignoti che lo perseguitano. Mi hanno teso una trappola. Insomma, come minimo, scrive Merlo, il reato di goffaggine c'è. E come finirà? Chi lo sa? Intanto finisce che sono stressati alcuni lavoratori. Sono stressati. Hanno preso carta e penna, hanno scritto al loro segretario generale, al loro capo, dicendo: siamo stressati, non se ne può più. Costoro sono alcuni dei dipendenti della Camera. Insulti e troppo stress. Montecitorio chiede aiuto. Leggo da pagina 5 del Fatto Quotidiano, Paola Zanca racconta di come alcuni dipendenti della Camera si rivolgano al segretario generale Zampetti, uno che credo guadagni 500.000 euro l'anno peraltro. Gentile dottore, le recenti decisioni dell'ufficio di presidenza in materia di retribuzione dei dipendenti stanno originando una serie di conseguenze che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono porre alla sua attenzione. D'altronde, scrive il Fatto, è stato deciso che si è messo il tetto a 240.000 euro anche per i dipendenti della Camera. Ecco, sostengono le rappresentanze, da quel giorno non si trova pace. Molte persone che si avvicinano alle sedi della Camera contestano coloro che escono dai palazzi con espressioni minacciose. Molte altre sui siti di informazione e social network auspicano la morte o altre disgrazie ai dipendenti della Camera, equiparati a ladri, servi, truffatori, anche da qualche onorevole deputato della Repubblica. Dunque, additano i giornali, l'informazione, certamente enfatizzare continuamente sulla stampa che i dipendenti della Camera guadagnerebbero, col condizionale troppo, ha accentuato i comportamenti di queste persone che sono convinte di stare dalla parte della ragione, tanto che affermano ripetutamente che non è abbastanza sui tagli. Ecco, stressati, insultati, e questo è un male, non va bene. Alcuni dipendenti della Camera, scrive il Fatto Quotidiano, si rivolgono al segretario generale a dire ci tuteli, ci aiuti. Ma non è questo che vince il premio Mani sul Volante. L'articolo che vince il premio Mani sul Volante, cioè l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata, lo vince Sergio Rizzo, che sul Corriere della Sera racconta con precisione, nomi e cognomi, tutto ciò che voleva fare Cottarelli. Lo ricordate Cottarelli? Ha preso, è andato in America, via, finito. E che invece non è stato fatto. Per esempio, Cottarelli voleva tagliare, si è detto tante volte, le società partecipate. Pensate che ne aveva trovate 2.771 che hanno più consiglieri di amministrazione che personale. Più consiglieri, magari presidente, vicepresidente, consigliere di amministrazione, consigliere, 5 amministratori e 3 dipendenti. Ecco, ne aveva trovate 2.671, così Cottarelli, e le voleva chiudere. Ha detto tagliatele, toglietele, sono solo posti per trombati dalla politica. Risultato, sono tutte ancora in piedi. Un paracadute per gli esodati della politica nelle società che Cottarelli voleva chiudere. Pagina 9 del Corriere. Ci sono i casi, per esempio, il caso di che cosa? Una società, eccola qua, Rete Autostrade Mediterranee, creata dal governo Berlusconi 10 anni fa. Ancora i vertici, presidente Antonio Cancian, detto Tony, reperto della vecchia DC per cui venne eletto alla Camera nel 2002, poi passato ad Alfano, guiderà la società con un solo dipendente. Un solo dipendente, ci saranno lui presidente, Cristian Emmola presidente renziano dell'assemblea del PD trapanese, e la consigliera Valeria Vaccaro, dirigente del Tesoro e incidentalmente moglie dell'ex braccio destro di Giulio Tremonti, Marco Pinto, attualmente consigliere Rai. Oppure Arcus, società che distribuisce soldi dei beni culturali, resuscitata dal Parlamento prima delle esequie, non si sarebbe salvata alle forbici di Cottarelli, ma non l'hanno tagliata. E l'amministratore unico, Ludovico Ortona, 72 anni, ex ambasciatore, già capo ufficio stampa di Cossiga al Quirinale, è sempre lì, riconfermato. E ancora la Sogesid, società distributrice nel 2013 di 380 consulenze. Il governo Monti la voleva sopprimere. Altro che soppressione, scrive Rizzo. Al suo vertice è arrivato il casiniano Marco Staderini, già consigliere delle Ferrovie e della RAI. E ancora l'ex direttore generale della RAI, Mauro Masi, nominato da Berlusconi, è stato confermato amministratore delegato della Consap, ultimo baluardo pubblico nelle assicurazioni. In aggiunta l'hanno fatto anche presidente. E così via, così via. Scrive Rizzo, le partecipate sopravvivono a ogni spending review. E con loro la moltiplicazione degli incarichi, c'è sempre un posto a vita per queste persone. La locura, la pazzia, la cerveza. Alessandro Milan, il panino cameusa dell'informazione. Grande il panino cameusa. Buonissimo, panino con la milza. Vabbè, allora, cari ascoltatori, oggi dovrete passare attraverso le forche caudine, se leggete i giornali, di 9 pagine, le prime di Corriere, Repubblica, i due giornali generalisti più importanti, ma anche gli altri giornali, dedicate a che cosa? Accordi, accordicchi, intese, non intese, patti del Nazareno, soglie, preferenze, percentuali, incontri, Berlusconi e Renzi. così è, se vi pare. Allora, orientarsi in questo marasma di retroscena, tutti uguali e tutti smentibili dopo mezza giornata, come si fa? Io ne ho selezionato alcuni. Vabbè, oggi c'è l'incontro alle 18, Renzi-Berlusconi, appunto l'incontro per continuare a trattare. Sul tavolo resta però anche l'opzione del voto, così racconta Maria Teresa Meli a pagina 3 del Corriere della Sera. Mentre Renzi, che ieri si è accomodato nel salotto di Porta a Porta da Bruno Vespa, ha ribadito che il problema non è tanto Berlusconi, ma il problema sono i suoi, cioè i suoi, Forza Italia, i litigi dentro Forza Italia, quelli che Daniela Santanchè in una dichiarazione al Foglio definisce cazzetti personali. Ecco, così Daniela Santanchè definisce quali sono i problemi all'interno di Forza Italia in questo articolo del Foglio. Perché Forza Italia alcuni all'interno sobillano contro il patto del Nazareno? Cazzetti personali. Questa è la definizione di Daniela Santanchè. In realtà ieri Berlusconi ha incontrato Fitto a pranzo, 4 ore di pranzo, di incontro a pranzo. Voglio sperare che il pranzo sia durato un po' meno. 4 ore al termine delle quali Berlusconi, come racconta il giornale a pagina 2, ha detto: abbiamo discusso con Raffaele, lui ha più capelli di me, più alto, ci siamo dati anche dei cazzotti, poi io sono scappato, lui mi ha inseguito, alla fine abbiamo fatto la pace. Vabbè, queste sono le cose secondo me più interessanti per affrontare la questione legge elettorale, cioè le battute in retroscena così. In realtà c'è una cosa interessante che sia Repubblica, sia il Corriere della Sera, sia il Messaggero mettono in evidenza, e cioè la questione, l'intreccio, le sorti economiche di Mediaset con l'attuale situazione politica, perché Confalonieri, come racconta Francesco Verderami sul Corriere della Sera, ha detto chiaro e tondo a Silvio Berlusconi: in questo momento Mediaset è in difficoltà economica. E quindi, eccolo qui il consiglio di Confalonieri per evitare un nuovo Alfano: ricuci dentro il partito. È più esplicito il Messaggero con Claudio Marincola a pagina 5. È stato Pier Silvio Berlusconi, dunque uno dei figli di Berlusconi, lunedì scorso, racconta il Messaggero, a fare notare al padre che Mediaset è in difficoltà, per esempio perché l'ultima goccia, racconta il Messaggero, che ha fatto traboccare il vaso è la levata di scudi del sottosegretario alle telecomunicazioni Antonello Giacomelli, che, racconta il Messaggero, sarebbe pronto ad annullare gli effetti di una delibera votata a fine settembre dall'Agicom, cioè l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, una delibera che invece farebbe risparmiare a Mediaset 73 milioni di euro nei prossimi 5 anni. È uno sconto che nasce dalla necessità di ricalcolare gli affitti per le concessioni televisive, una cosa un po' complicata, però ci sono in ballo, questa è la cosa che conta secondo il Messaggero, 73 milioni di sconti per Mediaset, non solo, anche per la RAI. Però questa cosa è appunto in bilico, tanto che Pier Silvio Berlusconi ha insomma fatto sapere al padre: non è che se noi rompiamo il patto del Nazareno ci salta questo sconto da 73 milioni nei prossimi 5 anni. E infatti Berlusconi direbbe, secondo il Messaggero: possiamo fidarci di uno così, e cioè di questa obliquità renziana? 73 milioni non sono da buttare via, ma la geometria asimmetrica che guida le mosse del Presidente del Consiglio sono qualcosa che fa un po' fibrillare Berlusconi. Ecco, allora si muove per questi conti un po' in bilico per Mediaset e tutto qui, poi il senso del non rompere il patto del Nazareno sta di fatto che lo scopriremo alle 18, quando Renzi oggi vedrà Berlusconi, e l'idea è questa: ora basta, Renzi dice, ora basta, si faccia questo accordo sulla legge elettorale. D'altronde siamo solo nel corso dell'80ª settimana decisiva per la riforma elettorale. Tra l'altro, avete visto che questa riforma elettorale si è visto un qualcosa da Prima Repubblica, Primissima Repubblica, nei giorni scorsi, con Renzi che è stato costretto, secondo i suoi, costretto a fare uno di quei vertici chiamando i cosiddetti cespugli, cioè i piccoli partitini, le piccole formazioni politiche, un tavolo con 20 persone, racconta il giornale L'Allegra Trovata, c'erano persone rappresentative di partiti di cui nessuno sa nulla in Italia. C'era per esempio in questo incontro tale Roberto Capelli, che viene intervistato da Repubblica, da Concetto Vecchio. Roberto Capelli che dice: io non avevo neanche mai messo piede a Palazzo Chigi, eppure è stato convocato deputato del Centro Democratico per parlare di legge elettorale. Pare che Renzi abbia detto ai suoi: se serve a ottenere un risultato faccio anche queste tavolate da primissima Repubblica. C'erano 20 persone, c'erano Gianluca Susta, vi dico alcuni, Andrea Mazziotti, Roberto Capelli per l'appunto, Bruno Tabacci, Pino Pisicchio e ancora Carla Zeller delle autonomie, Lucio Romano, Marco Di Lello. Alcuni dei convenuti a questa tavolata con Renzi per parlare di riforma elettorale, tanto che questo Roberto Capelli acquista il suo quarto d'ora di gloria, intervistato da Repubblica, pagina 4, il peone del Centro Democratico, dice: non avevo mai messo piede a Palazzo Chigi, ma era un vertice necessario per mettere pressione all'avversario. Eravamo in una ventina. Immaginate un vertice di 20 politici, alcuni dei quali vi ho citato. Non lo so se li conoscete, io personalmente alcuni sì, ma insomma, un po' sconosciuti ai più, 20 persone per parlare di legge elettorale. Vabbè, abbiamo sistemato questo argomento, anche oggi molto molto pregnante sui giornali. E voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Le prime 9 pagine del Sole non sono sulla legge elettorale. Questo no, come no, avviene no, a Corriere Repubblica. Siamo, no, ci siamo occupati, come hai visto, di questioni ad esempio come la necessità di versare 86 miliardi nel prossimo mese e mezzo, che è appunto il calcolo di quello che ci costeranno più o meno gli acconti e le tasse di fine anno. Se tu vuoi cominciare a dare il buon esempio anche con qualcosa di volontario, ho sempre quei 2 euro, di più magari. Puoi cominciare da quelli in modo volontario. Se avessi qualcosa, è già un po' di volte che ne parliamo di questa cosa, se tu avessi dimenticato qualcosa all'estero, può succedere, non ti devi vergognare. No, ma infatti, tu insisti, no, che poi magari alla centesima io non mi vergogno più. C'è questa, sai che sta arrivando questa cosa della voluntary disclosure, cioè ti puoi rimettere in regola. Ne spieghiamo oggi l'applicazione con una verifica di convenienza, cioè proprio dei costi e dei vantaggi del cosiddetto metodo forfettario. Ma perché ne parlo? Perché tra l'altro è in svolgimento in questi giorni, intanto che tu ed io siamo qui a occuparci di amenità, il congresso mondiale dei commercialisti, possiamo dire anche così. Invece ci sono i commercialisti che da tutto il mondo sono riuniti a Roma, mi fa piacere dirlo, perché tra l'altro oggi ne parliamo naturalmente sulle pagine di norme tributi, ma dove se no, anche perché appunto ci sono delle proposte da parte della categoria sul cosiddetto abuso di diritto, che, caro Alessandro, tu non sai cos'è, ma è una seccatura grandissima. Ne parleremo una di queste mattine, caro mio. Intanto hai visto che l'INPS tiene duro sulle pensioni, non vuole svalutarle. È una buona notizia in un certo senso, vediamo se adesso il Ministero glielo consente. Non riferiamo oggi sul Sole 24 Ore, naturalmente. Così come parliamo delle vicende che possono interessare Montepaschi, perché appunto ci sono dei rumors di possibili alleanze, ma questo lo diciamo non in norme e tributi, naturalmente, ma nelle pagine di finanza, così come si confà. Tra l'altro volevo mettermi anche un po' in giacca e cravatta, un po' in ordine, perché ho visto che Radio 24 ha superato 2 milioni di ascoltatori nonostante il sottoscritto, verrebbe da dire. Sì, esatto, cioè ci hai provato in tutti i modi a farci affossare, ma invece non vedo ce l'hai che tenete, ma me ne compiaccio. siete veramente una scoperta, resistete a tantissime cose, comprese le mie dichiarazioni della mattina. Va bene, sappi anche che la Corte, questa volta europea, ha bocciato il turismo del welfare, cioè non si può andare in un altro stato europeo da europei e dire: beh, io sto qua anche se non lavoro, però vorrei i sostegni sociali. È una sentenza molto interessante, infatti Bede Romano e Roberta Miraglia la raccontano da par loro, questa volta nelle prime pagine del Sole 24 Ore. Molto bene. Un Alessandro Milan al giorno toglie il medico tutor. Vabbè, anche questa potrebbe essere una soluzione per tutti. Allora, parliamo di Liguria. Avremo ospite il governatore della Liguria, Burlando, alle 8:15. È incredibile, ma ogni volta che piove, e piove abbondantemente, ci si ritrova a commentare le stesse cose. In questo caso due morti in una casa travolta dal fango. Ovviamente il secolo XIX si dedica abbondantemente a questo tema. Tempesta mortale. Vi segnalo l'intervista al prefetto Gabrielli, il capo della protezione civile, che non le manda a dire allo stesso Burlando, intervistato da Repubblica, pagina 15. Franco Gabrielli dice: non andrò in Liguria perché la situazione non è ancora stabilizzata. Il maltempo colpisce una zona, va avanti, torna indietro, si muove a tergicristallo, dicono gli esperti. E poi sentite che dice dell'amministrazione Burlando: l'amministrazione ligure ha reazioni isteriche. Hanno chiesto l'esercito che è arrivato, ma non serve a nulla, non sa dove mettere le mani. Oggi è fatto di super professionisti che con la protezione civile non c'entrano nulla. La Toscana sta messa peggio, ma i suoi amministratori non hanno queste reazioni. C'era proprio con la Liguria il presidente, il capo della protezione civile. Ancora, sentite Gabrielli: quando chiama l'esercito, Burlando mi ricorda Alemanno che spargeva in ritardo il sale sul ghiaccio di Roma e poi chiedeva i militari. Dall'ultima alluvione di Genova in poi le pratiche di protezione civile sono tornate indietro di 50 anni. Esercito e angeli del fango sono cose di un'altra era. La Liguria ha 6.700 volontari addestrati più un altro migliaio che si è mosso proprio per Genova. Non servono le truppe cammellate nei cherubini dal cielo, piuttosto Burlando pensi a come è stato gestito il suo territorio negli ultimi 30 anni. Oh, è il capo della protezione civile che, intervistato da Corrado Zunino su Repubblica, pagina 15, dice così al presidente della regione, che sarà ai nostri microfoni alle 8:15. Vedremo come si difenderà da queste accuse. In tutto questo avremo ospite anche Roberto Saviano, scrittore, che a 48 ore dalla sentenza che ha mandato assolti i boss e ha condannato l'avvocato che ha compiuto minacce ai suoi danni, oltre che a Rosaria Capacchione e ad altre persone, si è sfogato dicendo: è una sentenza all'italiana e senza coraggio. Ha parlato anche un po' imputando l'Italia di qualche modo di tanti silenzi. Mi spiace, dice Saviano, in questi anni di vita difficile e complicata aver avuto la sensazione che i clan non avessero contro la parte più forte del paese. No, avevano solo contro una parte che ora è quella migliore del paese, ma tutto il resto, anche se non connivente, era silenziosa e quindi connivente. Così Roberto Saviano, che lamenta dunque il mancato coraggio, evidentemente, e chiacchiereremo con lui di questo alle 8:30. Ma di cronaca mi ha molto colpito quello che è successo a Milano ieri, in una sede circolo del PD, dove erano riuniti alcuni inquilini di case popolari, un tema che abbiamo affrontato varie volte negli ultimi giorni. Erano riuniti con il sindacato Sunia. Parlavano, erano per lo più anziani, una trentina di inquilini, parlavano di quello che succede nei casi popolari, se c'è da sistemare una luce, una porta, eccetera. E c'è stato un raid a volto coperto durante questa riunione con persone che sono entrate, hanno sparato un candelotto fumogeno al grido di "le case non si sgomberano", hanno imbrattato muri, hanno buttato vernice, hanno svuotato un estintore nel corso, in questo piccolo locale circolo del PD, durante la riunione, con gli anziani che si calavano dalla finestra per sfuggire al fumo, una donna che vomita, racconta il Corriere della Sera, altre anziane che ansimano per la fatica di respirare, un uomo di 67 anni caricato in ambulanza, e in quel momento i carabinieri trovano lo striscione: no agli sgomberi, blocchiamo la TAV. Cioè, la TAV c'entra sempre, ovviamente. Le case non si sgomberano, raid a volto coperto nel circolo PD, dove era in corso una riunione di residenti dei palazzi popolari. Anche il Fatto Quotidiano dedica pagina 4 a questo tema: case popolari, assalto autonomo al circolo Dem, 25 persone incappucciate e mascherate devastano la sede piena di anziani inquilini al grido di "no sgomberi, no TAV". il sindaco di Milano la definisce un'azione vile e fascista. Invece, continua la saga Moncler. Ieri racconta Libero con Mattias Mainiero a pagina 12. C'è stato un faccia a faccia e non se le sono mandate a dire, anche se a distanza, Milena Gabanelli, colei che ha fatto il servizio di report su Moncler, le oche spennate, insomma quella cosa lì, e Bertelli, numero uno di Prada e marito di Miuccia Prada. Che cosa ha detto ieri Bertelli alla Fashion Global Summit a Milano? Commentando questa vicenda, questo reportage della Gabanelli, portare in televisione il tema dei maltrattamenti delle oche fa parte di una cultura ormai sorpassata, per questo la Gabanelli è stata stupida. Così Bertelli. Di più, naturale che in un mondo globalizzato un'impresa cerchi risorse produttive con costi più contenuti, per esempio in Ucraina o in Slovenia, non si può impedirlo in un mercato liberale. Questo non vuol dire che noi dobbiamo fare i carabinieri sui produttori ai quali ci affidiamo. Lo stesso discorso vale per Prato, dove il popolo orientale ha trovato un'opportunità economica e l'ha sfruttata. Replica di Milena Gabanelli, io stupida, non è illegale produrre all'estero come non è illegale essere avidi. E ricordo a Bertelli che io non sono indagata per l'elusione fiscale di 460 milioni. Insomma, Mister Prada dà alla Gabanelli la patente di oca attempata e la replica della Gabanelli. Questa vicenda non si concluderà in fretta, evidentemente. Mentre, signori, le province, racconta il Messaggero con Antonio Calitri a pagina 9, sono vive vegete nell'ottantesima settimana decisiva per la loro abolizione e in attesa dell'abolizione definitiva, racconta il Messaggero, battono cassa. Le province, 9-10 miliardi di euro di bilancio, chiedono soldi perché giustamente, se non le cancelli e mantengono le competenze su edilizia scolastica, trasporto pubblico, strade locali, hanno bisogno di soldi. È il solito pasticcio all'italiana. Ma siamo al momento conclusivo, il momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Io lo so che Lorenza Castagnieri, che ci ascolta, lo sta facendo apposta. Anche oggi vince con un'intera pagina dedicata alla giornata della gentilezza. Domani, caro Filippo Aureggi, caro Lorenzo Nespoli, domani è la giornata mondiale della gentilezza. Ed essere gentili, ci dice Lorenza Castagnieri, non abbracciatevi, non accarezzatevi, serve e c'è soltanto da guadagnarci. Ci si sente in pace col mondo e si vive meglio! Ma chi se ne frega! 24 mattino. Sono le 8:20 minuti in punto, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cronache di ennesima alluvione e pioggia in Liguria, incredibilmente ancora si piangono due morti, Carlo Armenese e Franca Iaccino, 73-69 anni, nell'entroterra di Chiavari, morti per una frana. Saluto il presidente della Liguria, Claudio Burlando, buongiorno presidente, ci eravamo sentiti anche di recente, un mese fa, per la vicenda di Genova. Senta, lei ha chiesto soldi, quanti ne arriveranno per la Liguria? Non lo so, io so solo che i comuni, le famiglie, le imprese non ce la fanno più. Abbiamo messo a disposizione delle imprese di Genova 50 milioni che non bastano, che sono una cifra grossa, ma evidentemente avendo esaurito le risorse, essendo obbligati al pareggio di bilancio, sia per Genova, per quello che manca, sia per Chiavari, ci aspettiamo un aiuto perché non ce la possono fare. L'ha quantificato, ce l'ho poco tempo. L'ho detto, sì, abbiamo bisogno di 150-200 milioni tra tutto, tra famiglie, imprese, somme urgenze per iniziare anche la messa in sicurezza. Ci rendiamo conto che sono tanti gli episodi che sono avvenuti in questi ultimi mesi in Italia, settimane e mesi in Italia, ma chiediamo che si renda conto che una sequenza come quella ligure dal 2010 ad oggi è una sequenza unica nel nostro paese. Com'è la situazione ora? Cioè, c'è ancora l'allerta e la situazione? L'allerta è fino alle 15, nella serata di ieri ha colpito il Savonese, il maltempo, in particolare il Benga Seriale. Quindi in questi tre giorni sono stati colpiti tutte le province liguri, in particolare Ventimiglia e anche ieri Taggia e Imperiese, appunto il Benga Cereale Savonese, il Tiguglio nella provincia di Genova e Ortonovo e insomma una situazione ancora complicata. Però le chiedo questo, non so se lei ha già visto i giornali, Burlando, ma oggi ha visto l'intervista che Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile, rilascia a Repubblica. Ecco. Non condivido una parola. Eh beh certo, perché attacca duramente lei dicendo dall'amministrazione ligure una reazione isterica. Per esempio questa richiesta dell'esercito che ci porta indietro. Guardi, è molto semplice, posso raccontare anche l'episodio. Prima alluvione di Genova, prefettura, ministro Binotti dice l'esercito a disposizione, i sindaci dicono tutti quanti ne abbiamo bisogno e Gabrielli risponde geridamente al ministro, è sua facoltà, come dire, ora, si è capito anche meglio, no? Con l'intervista di oggi. Cioè non voleva mandare l'esercito. È sua facoltà, io dico solo la, è sua facoltà signor ministro. All'alluvione di ieri, durante la notte, il ministro Binotti dice ancora il resto a disposizione, i sindaci ci dicono ne abbiamo bisogno. Insomma. Ora, secondo lei cosa deve fare un presidente di regione? Dice teneteveli? Io penso di no. Ma credo che Gabrielli contesti il fatto che si dice ci vorrebbe una vera cultura della protezione civile, ma guardi, da paese, da paese moderno. Tutti, ma mi consente di dire che come dire sono un po' discorsi. Io penso che in questi casi qui c'è bisogno di tutto, della protezione civile organizzata, delle colonne mobili, ho sentito il Trentino e gli altri presidenti hanno mandato le loro colonne mobili, c'è bisogno della struttura della protezione civile, c'è bisogno anche dell'esercito, che, parliamoci chiaro, anche uomini apprezzati che in certi momenti sono anche liberi, pagati dallo Stato e liberi, non fuori le parole del ministro Pinotti appunto un mese fa e anche la notte scorsa. E due notti fa anzi. E poi l'altra polemica, vedo che è quella con i ragazzi, diciamo così, che anche a me non piace chiamare del fango, i ragazzi come me nel 70 o 16 anni che vanno in piazza e aiutano, insomma, capisco che nella struttura della protezione civile ci sia anche come dire, un impadamento più giusto con quelli i volontari organizzati che fanno corsi e così via, mi rendo conto, è meglio avere dei ragazzi che fanno i corsi, ma quando come è successo ieri mattina a Chiara, io ho 100-200 ragazzi e i commercianti come dire, sono lì che non sanno come fare, dare una palla a mano e sparano. E si dà una mano, cioè non è un'immagine, non è un'immagine poetica ma un po' vetusta. Ecco, ho letto l'intervista, rispetto Gabrielli, è una grandissima personalità, però su questi due punti abbiamo un'opinione diversa che è emersa chiaramente in queste ore, io non sono una persona isterica, tutto mi si può dire meno che questo, ma penso che in questi casi più apporti hai meglio è. Devo dire che il responsabile della protezione civile nazionale che ha subito accolto la nostra richiesta ieri mattina alla Lavagna dove c'è il COM, cioè il centro operativo MIS, ci ha dato una mano enorme. Quindi vabbè, dissensi su con Gabrielli, può succedere in queste situazioni. Però le chiedo, secondo me hanno aiutato molto tutti. Le chiedo, presidente Burlando, lei davvero, cioè anche oggi sul Secolo XIX c'è un'intervista a lei, non si sente responsabile? Lei in qualche modo negli ultimi 30 anni a vario titolo ha amministrato il Comune di Genova, la Regione, è stato ministro. Che ho fatto io in questi anni l'ho fatto perché sono stato più volte eletto, io non sento questa colpa di aver avuto consenso sinceramente. Questo no, sicuramente no, ma la responsabilità di questa situazione. Dopodiché credo che diciamo le persone che hanno una responsabilità vanno giudicate non per quanto sono stati dei posti, perché questo non mi sembra un criterio francamente diciamo accettabile, ma per le cose che hanno fatto, che io ho descritto passo passo, no? Dal fatto che la mia giunta 20 anni fa cominciò i lavori per scolmare il Fregiano e che altri dopo di me hanno interrotto quei lavori. Ci sono stati meno di me, ma hanno fatto bene o male a interrompere quei lavori? Secondo me hanno fatto male. Quindi, dopodiché rivendico il fatto di aver fatto ripartire dopo 3 anni che erano fermi i lavori sul Bisagno, nonostante il fatto che manchi ancora il Consiglio di Stato che deve pronunciarsi. Ma non si è fatto, hanno fatto bene o male, secondo me hanno fatto male. Quindi si giudicano i comportamenti, non la longevità politica. critica, mi sembra un criterio abbastanza ragionevole, francamente. Le chiedo anche questo, l'ultima volta, un mese fa, ci avevamo sentito e le chiedevo di Renzi, le dice ma Renzi non deve venire in questo momento, però in questo mese il fatto che non sia mai venuto il Presidente del Consiglio, non mi risponda da collega di partito, ma da Presidente di Regione, non l'ha suscitato qualche domanda? Ma guardi, sono venuti qui tre ministri, il Ministro Pinotti, due ministri, il Ministro Pinotti e il Ministro Galletti, ed è venuto il Prefetto Gabrielli, capo della Protezione Civile. Ci siamo sentiti con Renzi, con il Ministro Orlando, l'altro Ministro Ligure, con il Vice Ministro Morando, con De Rio, con Lotti. Siamo rimasti d'intesa che non appena finito l'acconto dei danni dei commercianti, questo è il dato più grosso, purtroppo ci hanno chiesto qualche giorno in più adesso quelli di Genova, e ovviamente avranno un po' di tempo anche quelli di Chiavari. Io giudicherò Renzi quando finirà questa vicenda, diciamo entro l'anno, giudicherò, insomma darò un giudizio sul governo, su quello che ha fatto, sulla base di ciò che rispondono. Soprattutto se arrivano i soldi, se arrivano questi soldi. Devo dire che sullo sblocca Italia sono stati inseriti 18 milioni per continuare l'operazione del bisogno, che non bastano ma che sono molto utili. 7 milioni per concludere invece l'operazione Chiaravaggio al fiume di Sesti, che provocò tanti guai nel 2010, che già abbiamo messo in parte a posto demolendo il palazzo di Via Giotto, quello costruito incredibilmente sul fiume negli anni 50. Ci vedremo ancora nelle prossime ore, parlavo ancora ieri sera con Morando. Io voglio dire solo questo, il timore che ho percepito è molto chiaro, che un aiuto forte a Genova abbia effetto trascinamento sui tanti altri casi di questi ultimi tempi in questo paese, però qui è venuto un fatto veramente diverso, insomma, ne sono venuti 7-8 in 4 anni, sì, di gravità inaudita. Insomma. Quindi c'è stata una accanimento. Mi pare che un paese, diciamo, debba anche saper scegliere qualche volta una priorità forte, senza bisogno che questo poi trascini sempre comunque, poi è chiaro che gli altri devono avere il giusto, per carità. Ma mi pare che adesso un aiuto a una comunità così colpita sia meriti fatto di dovuto. Allora io intanto la ringrazio e staremo a vedere. Grazie Claudio Burlando per essere stato con noi, Presidente della Regione Liguria. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra 5 minuti avremo i nostri microfoni Roberto Saviano, da 48 ore dopo la sentenza molto controversa che lo riguarda, e riguarda lui e altre persone, e riguarda anche tutti noi probabilmente. 24 mattino. Sono le 8.35 in punto, ben ritrovati ancora da Alessandro Milan. Allora, sono passate 48 ore da questa sentenza che ha fatto molto discutere. Un avvocato, Michele Santonastaso, condannato a un anno di carcere in primo grado per le minacce fatte durante un processo ad alcuni magistrati, ma anche a alcuni giornalisti. Rosaria Capacchione è diventata deputata del PD e soprattutto la persona più celebre che era coinvolta in questo processo, cioè Roberto Saviano. Nella stessa sentenza però assolti abbastanza incredibilmente, almeno con uno stupore da parte di tutti, i due boss che sono difesi dall'avvocato in questione. Deve per forza partire da qui la nostra chiacchierata con Roberto Saviano, che saluto e ringrazio. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Roberto. Allora, buongiorno. Sono passate 48 ore da questa sentenza. La prima domanda che mi viene da fare è se c'è più la soddisfazione per la condanna all'avvocato o lo stupore, l'incredulità per la soluzione dei due boss. Ma siccome siamo ormai abituati a vedere tutto qui in Italia, sono abituato ad analizzare centimetro per centimetro le cose. Devo dire che da un lato c'è anche la soddisfazione di aver visto riconosciute le motivazioni delle minacce, perché il tribunale ha riconosciuto le minacce con l'aggravante mafioso, quindi non minacce personali, ma fatte per conto, per finalità mafiosa, quindi per conto del clan. Dall'altro lato devo dire lo stupore, allo stesso modo, di vedere i mandanti, Antonio Iovine e Francesco Bidognetti, stiamo parlando di due importanti camorristi. Bidognetti è stato addirittura il fondatore dell'organizzazione, uno dei fondatori più importanti dell'organizzazione camorristica, e assolti nonostante il documento che il tribunale ha riconosciuto essere una minaccia, cioè il documento di legittima sospicione, e sia stato firmato da tutti e due. Quindi come minimo stupore, dice, insomma, per questo. Sì, e poi mi rendo conto, bisogna leggere le motivazioni, insomma, in questi casi quando sei parte in causa è difficile diventare analista, anche se il mio mestiere è questo, quello di studiare carte e valutare cose. Conoscendo i meccanismi di come funzionano certi, di come funziona il sistema, come viene chiamato, come avranno reagito Bidognetti e Iovine, secondo lei? Ma io ho visto soltanto la reazione di Bidognetti, che era di fronte a me in videoconferenza, era ovviamente soddisfatto. Iovine non si vedeva, e perché si è pentito, e comunque diciamo nel processo il suo ruolo è cambiato, perché a un certo punto ha collaborato anche alle indagini su questo processo a metà del percorso. Addirittura c'è stata una procura che a un certo punto ha chiesto, all'inizio aveva chiesto la condanna, poi ha chiesto l'assoluzione, e è stato confesso che uno dei dolori più grandi è stato immaginare la soddisfazione di questi due boss. Ma si può dire, dopo questa sentenza, che rischia in qualche modo di rafforzarsi la camorra, un certo tipo di camorra, oppure no? Senza dubbio, nel senso che dal mio punto di vista hai la sensazione che puoi decidere di far entrare nel tuo obiettivo società civile senza subire veramente danno. È vero che c'è la zona grigia, anche se è una parola orrenda, perché non rende abbastanza questa espressione, che è stata condannata, cioè in questo caso c'è la borghesia criminale, quindi, perché l'avvocato in questione viene condannato per un reato con finalità mafiosa, e non solo, ma c'è anche in un'altra situazione un processo per 416 bis, quindi proprio affiliato. Stiamo parlando quindi di un mondo che sta emergendo, un mondo di rapporti tra imprenditoria, avvocatura, giornalismo locale, cioè tutto un mondo trasversale, quindi questo è interessante, però dai la sensazione in queste ore di essere più fragile, cioè quasi anche di uno Stato che arretra, anche se poi la condanna c'è stata. Ricordiamo, questo avvocato è un avvocato che adesso è in carcere per un altro processo, appunto sono stati chiesti 22 anni di carcere per lui. La domanda è molto esplicita: c'è qualcuno che l'ha delusa più di altri? Cioè, si aspettava una solidarietà che non è arrivata in questi anni durante questo processo da qualcuno, e che invece non è arrivata? Anche qui è complicato, nel senso che la politica che si esprime su tutto, sempre e comunque, in queste ore, ma anche, devo dire, qui è stato un processo lungo, complicato, il dibattimento, ci sono state vere e proprie aggressioni culturali, e c'è stato un vero e proprio processo a chi ha raccontato quelle terre. Non c'è stata una vera vicinanza, io ne esco, ne usciamo fuori con la consapevolezza che chi tocca il racconto di quelle terre, credo che valga anche per Rosaria Capacchione, chi tocca quelle storie e tocca figli ad alta tensione, cioè la sua vita cambia per sempre, e si trova contro non semplicemente il gangster, ma si trova contro tutta la parte che si sveglia e pensa che chiunque sia lì a raccontare uno speculatore, pensa che sia un diffamatore, e pensa che sia una persona che sta esagerando, e preferisce sentire queste storie come storie di margine, come storie di gente che si ammazza tra loro, piuttosto che un'analisi di sistema. Ecco, questo è quello che alla fine ti porti dentro, e in più un paese che non gli importa nulla, cioè tranne una minoranza che io forse definirei virtuosa, se non addirittura in queste ore di ipermeditazione, insonnia, eroica, userei questa parola, e tranne quella parte lì non gli importa nulla. Di tutto questi racconti, sì. Però sai che molti si chiedono, Saviano, ma allora se le minacce non ci sono dei boss, almeno questo dice la sentenza, allora non serve più la scorta, un qualcosa che magari lei spererebbe, insomma, in una vita normale. Ma cosa risponde a questi che dicono così? Io speravo una cosa del genere, invece no, perché che cosa succede? Che la sentenza conferma le minacce, questa è la cosa paradossale. La sentenza conferma minacce camorriste, perché c'è l'articolo 7, fatte dall'avvocato, ma non trova le prove per ascriverle ai boss. Ai boss come mandanti, che è un paradosso, ripeto, difficilissimo da poter sentire dentro di sé, perché esiste un avvocato che può in autonomia fare minacce, attenzione, non minacce personali, perché se la sentenza avesse detto guardate è una minaccia del singolo avvocato, come dire un fatto privato, no? Oppure un odio personale, no, sono minacce considerate mafiose e quindi diciamo per conto del clan, ma in senso generico. Ecco perché uscito da quell'aula i carabinieri che mi scortano, comunque gli ufficiali con cui io sono in contatto, mi dicono ma perché hai detto che è un passo per la libertà, qua ci sono minacce, quando mai, qua è una situazione ancora più complicata. Ancora quindi più complicata. Esattamente il contrario, sì. Quindi un po', infatti prima della sentenza lei ha postato una foto di una branda e di una caserma a dire per me Napoli è questo, come anche altre parti d'Italia o del mondo, cioè vivere in una caserma, non poter andare in giro, ma questo tipo di vita, cioè il riacquistare una vita normale, sarà possibile? Cioè, è una cosa che vede adesso, come una chimera, voglio dire. Adesso io parto tra poche ore e spero di stare il più lontano possibile, nel senso che non mi è più dato le mie forze, le mie energie di stare in questo paese in queste condizioni, cioè non esiste, tra l'altro diventa anche difficile continuare a fare il proprio mestiere con il ghigno dei boss che io ormai ho stampato chissà tra quanto me lo toglierò negli occhi, e quindi la libertà è a un certo punto, ha ragione Salman Rushdie che mi ha sempre detto la trovi tu, nessuno Stato te la ridarà. E quindi cioè questa Italia non la sente un po' più sua? Ma assolutamente, nel senso che non riesco più a capire come sia possibile che questo paese, che in questi anni, parlo degli anni, per sintetizzare userei una parola, il berlusconismo che ha visto Nicola Cosentino sottosegretario, Marcello Dell'Utri, insomma vicende su vicende, alla prova dei fatti una cosa del genere, cioè dei capi che vengono assolti, ma poi non solo questo, no? L'argomento, il tema che risulta uno dei temi nell'agenda molto marginale del paese, insomma mi dico forse non avevo capito niente, avevo creduto che si potesse cambiare qualcosa. Io continuo, nel senso che non è che questo sia sufficiente per non farmi più scrivere o non farmi più occupare di queste cose, però sicuramente c'è molta delusione. Allora ripartiamo da questa delusione che si percepisce anche dalle sue parole, dal tono della voce. Tra un attimo c'è il traffico, 30 secondi e siamo con Roberto Saviano per capire perché questa lotta alla criminalità organizzata è sparita, dice lei, dall'agenda, immagino anche dall'agenda di governo. 24 mattino. Allora siamo con Roberto Saviano, ancora un 8 minuti fino alla conclusione di questa trasmissione. Saviano di recente anche ha detto non vede questa azione di governo forte, di contrasto alle mafie, di Berlusconi, del berlusconismo, varie volte ha scritto, lo vede anche in Renzi questa assenza, questa manovra poco incisiva? Ma vede questo governo come una distrazione, cioè un impegno antimafia preso, ma poi sul piano operativo leggi proposte accolte a metà, grandi dichiarazioni di principio, ma poi sul territorio, quando si va in Calabria, quando si va in Campania, non è che ci sono iniziative forti, magari sì, solo delegate alle associazioni oppure prese di posizione morali, ma il problema è che la lotta a queste organizzazioni non la si può fare pensando che sia uno dei problemi, ma il problema. E mi rendo conto che è complicato perché innanzitutto dovresti prendere il coraggio di far capire a tutto il paese che se ti occupi di questo tema non stai trascurando il lavoro, non stai trascurando l'economia, anzi stai iniziando nell'unica strada possibile, perché e questo è anche il mio gruccio di non essere riuscito fino in fondo a far capire tutto questo. Se tu non inizi per esempio a rompere con l'imprenditoria criminale è l'unica che non ha paura della burocrazia. Io se devo vincere un appalto e sono un'impresa sana, avrò danno dai tempi lunghi, le leggi complicate, la macchinosità. Un'organizzazione dranghetista no, perché va lì e sa chi deve pagare, va lì e sa chi deve oleare, ogni passaggio sa come funziona. Paradossalmente è un'economia che funziona alla perfezione, diciamo. Per loro sì, perché loro anche se vengono poi beccati, mettiamo che viene beccata un'organizzazione criminale, l'immagine della loro azienda non è un problema. Cioè vengono arrestati, tratto che cosa sarà, truffa, cioè sono tutti reati che tengono in conto, e poi c'hanno i soldi del narcotraffico che sostengono le loro aziende. Però, la persona onesta no. Che cosa può fare domani? La prima cosa concreta che dovrebbe fare un governo per dare il segnale stiamo contrastando come fosse il problema la criminalità organizzata, la prima cosa che si può fare in 48 ore? Mettere mano immediatamente al sistema finanziario, cioè iniziare a comprendere nei flussi finanziari, le banche italiane, le responsabilità, cioè la questione del riciclaggio. Gli Stati Uniti a un certo punto che cosa fanno? Varano, utilizzano il Patriot Act, cioè una legge per cui il sospetto che ci siano capitali criminali in una banca fa sì che la banca, il sospetto che la banca sia congelata. Cioè non può fare più affari sul territorio. Ovviamente se a processo la banca risulta innocente, il governo degli Stati Uniti si impegna a rimborsare l'intera cifra del denaro perduto di attività. Questo cosa ha portato? Faccio un esempio. Cosa ha portato? Che le più grandi banche del mondo, cioè Wachovia, HSBC, la più grande banca europea, hanno pagato delle multe enormi. HSBC ha pagato 1 miliardo di euro solo per il denaro considerato il riciclaggio, ma dell'arcotraffico messicano. Sì. Questo in Italia è possibile. Wachovia, la terza banca più grande d'America, ha pagato miliardi, billion di dollari. È possibile che in Italia tutto questo non avvenga? Cioè non ci sono banche conniventi? È possibile che i grandi gruppi, ci sono, questo è difficile, dovrei fare un lungo elenco, ma ci sono, no? Aziende, volevo dire banche, dentro alcune indagini, che danno finanziamento solo quando riescono ad essere consapevoli che il finanziamento lo danno a un'organizzazione. Insomma, mettere mano lì sì. su questo settore. Però le chiedo, ci sono Cantone all'anticorruzione, suo amico, ex magistrato, certo. Grasso, magistrato numero 2 dello Stato, cioè non bastano, voglio dire, per dare un'immagine di uno Stato forte? Ma sicuramente la presenza di Raffaele Cantone è una presenza importante, Grasso conosce benissimo il tema, il problema è che non bastano loro in quanto esseri umani e figure, cioè il rischio è che il governo le utilizzi come soprattutto poi anche il percorso anticorruzione, noi siamo diversi, bene, ma vediamo, vediamo. Cioè rischio che siano delle immagini solo delle... Rischia essere anche delle dichiarazioni molto generiche, intanto ribadisco, ieri non è arrivata nessuna dichiarazione pubblica di una politica che commenta qualsiasi cosa, il messaggio è forte e chiaro. Per esempio Renzi non l'ha chiamata? No, abbiamo avuto un messaggio privato. Un messaggio privato, si aspettava qualcosa di più? Ma non dalle persone, mi aspetto di più dalle istituzioni, nel senso mi aspettavo di più, insomma stiamo parlando, poi non ero solo, c'era anche Rosaria Capacchione, certo. In questo processo c'è Cantone, in questo processo c'è nel mirino anche Fabrico Cafiero De Rao, c'è dannazione, 10 anni di lotta e neanche un commento, no? E quando capisci questo capisci che forse, avevano ragione loro, nel senso che ti sei bruciato e basta e via. Ma me lo dà da 0 a 10 un giudizio su Renzi, sul governo Renzi della lotta alla criminalità organizzata fino a questo momento, per quello che ha visto? È difficile dare un giudizio, posso dire sicuramente che mi aspettavo la priorità, cioè mi aspettavo che fosse la sua volontà fosse arrivare al 10 a un 10 sulla subito, poi invece siamo proprio ai primi passi. Eh, immagino vada in America, spesso sta in America. Le chiedo, lei ha scritto un libro 000, scoperchiando anche il marciume e le criminalità dei narcos messicani, ma lì in America l'hanno presa bene, l'hanno presa male? Cioè, nel senso, la domanda è, in America lei ha la scorta? Sì, ho una protezione diversa da quella italiana e a volte sono stati anche rigorosissimi, perché quando ho fatto Occupy Wall Street a Zuccotti Park, poi mi rimpatriavo. Quindi dovunque vada, purtroppo la vita è quella, abbastanza blindata. Sì, diversa, devo dire, dipende dal paese, dalla situazione ovviamente, che in questi anni io ho girato mezzo mondo per cercare una situazione più tranquilla, però quello è. Quello è. Ma davvero, cioè, perché già in passato aveva detto vado via dall'Italia, non torno più. Ma io vado torno quando qui sono tornato per un tribunale. Sì, certo, però ha la sensazione in questo momento di sentirsi molto più distante dall'Italia di quanto non lo sia fisicamente. Sì. Questo. Sì, io già adesso, insomma, tutto l'anno scorso ho insegnato a Princeton, quest'anno ieri. O meglio, l'altro ieri, ormai ho quasi perso la dimensione del tempo. Dicevo, ieri sono tornato per il tribunale, ma sì, altrimenti sarei stato lì. Va bene, io devo concludere, devo farle questa domanda, perché se no qua in redazione vi chiedevano, ma c'erano state anche voci di una liaison con Pina Picerno del partito, e lei non ha mai detto niente su questa cosa, però la devo fare questa domanda stile Alfonso Signorini, Cazzate, vabbè. Allora, concludo come concluderebbe un personaggio, se diciamo, stai senza pensieri, Saviano. Mi piace questa conclusione. Mi piace, vabbè. In bocca al lupo ovviamente per tutto, okay. E grazie davvero per essere stato con noi. Roberto Saviano, grazie, con lui concludiamo questa puntata di 24 Mattino, con Lorenzo Nespoli in redazione insieme a Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni. Grazie davvero a tutti voi, così come Filippo Aureggi oggi in regia. Ci rinnoviamo l'appuntamento a domattina 6:30 puntuali. 24 Mattino.